Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Passata la prima parte delle feste, ritroviamo con noi il presidente dell'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, Carlo Garofolini. Benvenuto Carlo. Ciao Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. L'argomento che oggi andiamo a toccare con te è un argomento assolutamente importante, perché può capitare che magari ci facciano firmare dei fogli asserendo una determinata cosa e che poi di fatto questa non è, e addirittura ci troviamo costretti a pagare dei soldi. Raccontiamo bene nello specifico questa vicenda. Sì Francesco, innanzitutto dobbiamo dire che è una vicenda che si sta rivolgendo principalmente alle aziende e alle imprese, ed è una vicenda che per molti aspetti assomiglia a una famosa vicenda che avevamo trattato un paio d'anni fa con Avron, solo che in questo caso l'azienda si chiama New Media Service ed è un'azienda che, utilizzando dei loghi simili alla Camera di Commercio, tende a mandare dei fogli informativi alle aziende, quindi alle imprese, invitandole a verificare la correttezza di dati riportati in alcuni prospetti. Una volta poi che le aziende verificano in questi prospetti e che casualmente trovano delle incongruenze che non vanno rispetto alle attività che svolgono, li spediscono indietro a carico del mittente, che predispongono già la busta e tutto, e automaticamente si trovano poi a scoprire, quando gli arriva da pagare 1584 euro, come nel caso di una ditta che si è rivolta a noi poche settimane fa, di servizi pubblicitari non richiesti per 24 mesi. Straordinario, cioè loro ti mettono anche la busta per poter rispondere a francata, quindi uno dice ma sì, probabilmente è la Camera di Commercio o qualcosa di simile che mi chiede la conferma dei dati, e invece e ti trovi ad aver sottoscritto qualche cosa di cui proprio non ne sapevi nulla. E poi è incredibile il fatto che loro mandano questi prospetti, no? Dove mettono il nome, il cognome, la tipologia della società, gli indirizzi e tutto. Poi magari alla fine scrivono che ti occupi, non so, di scarpe anziché di vendite di lampadari, dico una stupidaggine, poi dal momento che viene invitato a correggere i dati per poter essere iscritto regolarmente a un registro delle imprese, in realtà poi scopri di aver sottoscritto 24 mesi di pubblicità, e chiaramente lo scopri quando ti arriva questo salasso da pagare. Una tecnica simile a quella che utilizzava Avon un paio di anni fa, e che vede anche in comune il fatto che questa impresa, che ricordiamo la New Media Service, ha la sede all'estero, in questo caso in Germania, e di cui adottano appunto queste strategie ormai conosciute a molti, ma ignari per povere persone che non hanno neanche colpa a caderci, perché è veramente architettata molto bene. E dopodiché, rivolgendosi all'Adico, noi abbiamo provveduto subito quindi a bloccare il pagamento, a diffidare l'impresa e a procedere anche a fare un esposto ai tribunali, perché sono tecniche del tutto ingannevoli che ogni giorno non finiamo mai di scoprire neanche noi. Ecco, io magari non ho proprio una memoria così valida, diciamo. Mi puoi raccontare quello che era successo con l'Avron e come era andata a finire? Con Avon era successa la stessa identica cosa: il contratto non era di 24 mesi ma di 36 mesi addirittura. Anche l'Adico era stato tra le vittime proposte a questo tipo di truffa. Fortunatamente noi con i nostri esperti ce ne siamo accorti subito, ma era sempre una ditta che ti invitava a fare una verifica dei tuoi dati anagrafici come azienda e verificare un po' se l'attinenza corrispondeva con le tue specificità. Nel momento che casualmente trovavi un errore, tu mandavi una busta indietro convinto di che fosse una comunicazione alle Camere di Commercio, automaticamente in questo caso l'Avon ti mandava 2.700 euro da pagare, e di conseguenza per 36 mesi, e di conseguenza questo fenomeno ha durato anche qui per un paio d'anni, come Adico ne abbiamo trattati circa un centinaio di casi. Poi questa azienda ha tentato anche di mandare dei solleciti di pagamento tramite le società del recupero crediti, sempre dall'estero, perché anche questa aveva un'azienda all'estero, benché avesse un riferimento a Milano, ma facendo gli esposti per i tribunali, denuncia alle procure e diffidando la società, comunque bloccando i pagamenti da parte di questa azienda cui veniva chiesto appunto questi solleciti, alla fine poi tutto è caduto un po' sul vuoto e nessuno si è trovato a pagare queste cifre. Ho capito. Se capita una cosa del genere, se avete dei dubbi, è sempre meglio sprecare 5 minuti del vostro tempo. Chiamate l'Adico, associazione difesaconsumatori.it, è il sito dove trovate i numeri di telefono e tutto quello che serve in questi giorni, a parte proprio le feste canoniche, siete aperti, quindi vale la pena perdere 5 minuti in più e non rispondere a queste inchieste virgolettato di mercato dove vi chiedono di aggiornare i dati o cose di questo genere. Mi raccomando. Grazie quindi a questa bella segnalazione che magari potrebbe salvare da eventuali rogne qualche nostro ascoltatore. Grazie all'Adico, grazie a Carlo Garofolini. L'appuntamento con l'Adico è per l'ultimo giorno di quest'anno. Grazie per Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci in collaborazione con Adico, associazione difesa consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.